Vendo tutto di Matteo Caccia. Bergamo, Cesena, Incisa Valdarno, Castellana Grotte, provincia di Bari, Alesso, provincia di Udine, Palermo, Patti, Latina, Iesi, provincia di Ancona. Con gli oggetti che ho venduto faccio il giro d'Italia, non mi fermo e continuo, vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme, lo so, capita, succede a tutti e stavolta è toccato a me. Io però questa volta ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova, venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo un paio di scarpe da montagna. Sono le 16.07, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma si chiama Vendo Tutto. Oggi è una puntata particolare, perché è una puntata divisa in due. Cioè, nel senso che oggi vendo un oggetto, domani ne vendo un altro, come al solito. Però la storia di oggi è una piccola miniserie, cioè comincia oggi e finisce domani. Quindi, se avete impegni domani, liberatevi, oppure preparatevi a scaricare il podcast, perché dalle 16 alle 16.30 si finisce la storia che comincia oggi. Ed è una storia che parla di amori sul posto di lavoro. Prima si faceva un veloce sondaggio qui in radio e... alla faccia, praticamente la metà delle persone che lavora in questo posto è o sposata o fidanzata o c'ha un figlio insieme. Abbiamo fatto una veloce ricerca, avete presente quelle splendide ricerche e studi fatti dall'università del Nord America o del Nord Europa? Allora, si dice che il luogo più in cui è più facile trovare l'amore è proprio l'ufficio. Sarà perché ci passano la maggiore fetta del nostro tempo, sarà che forse è frequentato dalle persone che hanno molte cose in comune con noi, però sembra proprio che le relazioni in ufficio siano all'ordine del giorno e addirittura il 50% dei matrimoni, delle persone, dei matrimoni nascono sul posto di lavoro. Questa è una ricerca dell'Industrial Society, qualcosa sarà finta ovviamente come tutte queste ricerche. Suggerisce che il 40% degli impiegati ha avuto una storia con un collega e il 50% delle persone invece incontrano il futuro compagno barra A sul posto di lavoro. 800240024, oggi solo coppie felici che si sono incontrate e poi sposate in ufficio. No, aspetta, detta così è orribile. Solo coppie che si sono incontrate in ufficio e poi si sono sposate felicemente. 800240024 oppure 349-238-6666 per gli sms. Tra l'altro mi è venuto in mente proprio mentre ci pensavo che i miei genitori si sono incontrati sul posto di lavoro. I genitori di Laura Faggin si sono incontrati sul posto di lavoro e già delle persone che sono qua siamo già in 2 su 4. Tiziano Bonini no, Paulino Corleoni no, però direi che è un buon 50%, come dice la statistica. 800240024, le coppie che sono nate sul posto di lavoro e si sono sposate. Poi, facciamo così. Se c'è pure... bravo Paola, basta un po'. Se c'è pure qualche tresca. Si dice tresca in italiano? Vale? La capiscono tutti. Se c'è pure qualche tresca e avete il coraggio e la forza di raccontarmela, io vi tengo anonimi, ok? 800-24. Altrimenti, ad alta voce, coppie sposate che hanno figli o che sono fidanzate sul posto di lavoro. 800-24-0024. Oppure 349-238-6666. La mia storia di oggi riguarda un paio di scarpe da montagna, ma nasce molto prima. Nasce proprio per un incontro fatto sul posto di lavoro. Devo dire che... c'è qualcosa di losco sotto e quindi è arrivato il momento di parlarne. Volete vedere le scarpe da montagna? Radio24.it. Volete sentire la prima parte di questa storia? Eccoci qua. Le scarpe da montagna. Scarpe da montagna marca Timberland, modello Mountain Athletics. Colore nero e blu, taglia 44, tessuto traspirante. Suola con rilievi pronunciati allineati lungo la linea di pressione del piede per ottimizzarne l'aderenza. Tacco e punta rinforzate. Valore commerciale 89 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Io vivo di lavori a tempo determinato. Non me ne lamento, anzi mi piace. Me lo sono scelto e ne sono felice. Mi piace che ci sia sempre un punto di arrivo. È come se la conclusione sia il metro di misura di quello che sto facendo. Una specie di navigatore satellitare che indica il punto esatto in cui mi trovo. Poi il fatto che una cosa finisca presuppone sempre che ce ne sia, in teoria, una nuova da iniziare. E per quanto ci si debba rimettere in gioco, andare un po' a tentoni, fare cose nuove alla fine mi impedisce di adagiarmi. Altrimenti so già come andrebbe. Mi convincerei che ormai quella cosa lì la so fare e la faccio sbagliandola. Per cui faccio lavori che hanno un inizio, un apice e una fine. E poi cerco di fare come ha fatto Zinedine Zidane. Togliermi dai piedi prima di diventare un rottame. Insomma, tutto per dire che facendo lavori diversi in posti diversi incontro parecchie persone. Il fatto che in questi posti ci rimanga solo 6 mesi o 1 anno non mi impedisce di entrare in quelle dinamiche tra colleghi che caratterizzano un po' tutti gli ambienti di lavoro, no? Amicizie, ostilità, invidie e corteggiamenti. 2 anni fa ho lavorato per qualche mese in una casa di produzione televisiva. Gli uffici erano in un palazzo in una zona di Milano vecchia, un po' fuori, verso la campagna. L'edificio era una cascina ristrutturata da qualche maxi architetto. Uno di quei posti che a guardarli da fuori pensi che lì ci girino un sacco di soldi. E poi invece ti stupisci quando ti offrono una paga ridicola. Ma vabbè, questo è un altro discorso. La redazione in cui si lavorava era un grande spazio unico, aperto, con dentro una ventina di scrivanie, più o meno. Un open space. Oh, là, l'ho detto, open space. Fa un po' agente immobiliare, però open space. Faccio sempre un po' di fatica, a dire la verità, lavorare in un posto pieno di gente che parla al telefono, si dice cose da una scrivania all'altra, ride, si lamenta, insomma, fa tutte quelle cose che capita di fare durante il giorno, però le fa in un open space, appunto. Quindi tutti si devono assorbire i rumori di tutti. Allora, per isolarmi, mi infilo un paio di auricolari nelle orecchie e cerco di combinare qualcosa. In quei mesi di lavoro però non combinai molto. L'unica cosa che conclusi fu incrociare gli sguardi di una ragazza che lavorava 2 scrivanie più in là. Cominciamo con dei sorrisi, qualche battutina a distanza. Poi un caffè offerto alla macchinetta, un al bar, un aperitivo, un cinema, fino ad un fine settimana fuori città. Lo so che state facendo i calcoli perché ho detto che questa cosa accadeva 2 anni fa. E quindi vi state facendo quella domanda lì. E la risposta è sì. Questa cosa è accaduta mentre stavo con Giulia. La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare. Su con me, chi lo sa perché? Ognuno ha diritto di vivere come può. La verità ti fa male, lo so. Per questo una cosa mi piace e quell'altra no. La verità ti fa male, lo so. Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te. Ed ho scelto te. Io non sono una persona infedele. Intendo dire che non ho un curriculum di traditore incallito, però quella volta lì ci sono cascato. Ora non mi metterò a cercare delle giustificazioni, roba per spiegare come sia potuto accadere, e non lo farò non perché non ne abbia bisogno, ma perché proprio non me ne frega niente di farlo. È successo un po' quello che mi succedeva a scuola, alle elementari, quando un giorno, come tutti gli altri, durante l'intervallo, per caso notavo una ragazza della classe al secondo piano che non avevo mai visto. E mi accorgevo che mi piaceva guardarla. E che la mattina ero contento di alzarmi per andare a scuola, perché sapevo che l'avrei vista. E allora studiavo i modi per entrare in contatto con lei. Insomma, una forma di innamoramento lieve, una cosa che credo abbiano provato tutti. Ecco, mi è accaduta la stessa cosa in quell'open space 2 anni fa. Quando un giorno lei ha alzato lo sguardo dallo schermo, ha visto che la stavo guardando e mi ha sorriso. E da lì, in un attimo, eravamo pronti a partire per il fine settimana. Trovai una scusa per Giulia e un modo per tenere a bada i miei sensi di colpa. E poi mi preparai a partire. La proposta mi era uscita dalla bocca senza controllo. Stavamo prendendo un cappuccino alle 10 del mattino. Ma perché non andiamo via un paio di giorni? Lei aveva sorriso e poi mi aveva detto che adorava la montagna. Io le dissi che per me la montagna era come il paradiso per un credente. E lei mi fece la domanda che mi colse un po' impreparato. Senti, hai mai arrampicato? E io, sì o no? Guarda, è presente Tom Cruise nella prima scena di Mission Impossible 3? Lei annuì, poi sorrise e mi disse che era perfetto, che conosceva un posto bellissimo in Val d'Aosta. Sorrise e non mi disse che la scena in cui Tom Cruise si arrampica nel Grand Canyon non è Mission Impossible 3, ma è il 2. Ma forse aveva già capito tutto. Il giorno prima di partire andai a procurarmi il necessario per il weekend. Comprai un imbrago per la sicurezza e questo paio di scarpe da montagna, quelle che vendo oggi. Oggi vendo queste, domani venderò l'imbrago. Inutile dire che oltre al senso di colpa, la paranoia fu il sentimento che mi accompagnò per tutto il fine settimana. Avevo il terrore di incontrare qualcuno che conoscevo o che, peggio ancora, conosceva Giulia. In coda al casello guardavo le macchine a fianco con sospetto, in autogrill mi nascondevo dietro gli scaffali. Dopo 2 ore di travaglio arrivammo dalle parti di Courmayeur. Parcheggiamo l'auto e iniziamo a salire su un sentiero. Era di primo pomeriggio ed era ancora chiaro. Lei già mi sembrava molto meno carina di come me la ricordavo sbirciandola da dietro al computer, però feci finta di niente e iniziai a salire. Per evitare che lei notasse il mio fiato corto, ogni 5 minuti mi fermavo ad osservare una pianta o un fiore fingendo di conoscerli, finché dopo un'ora di cammino il cielo si fece buio e iniziò a piovere. Forte. Ero fradicio. Avevo uno zaino pesantissimo ed ero su un sentiero di montagna insieme ad uno sconosciuta. E una domanda si materializzò nella mia testa. Ma cosa ci faccio qui? Come è andato a finire quel fine settimana ve lo racconto domani. Per oggi mi limito a vendere le scarpe. Il loro valore di mercato è di 89 euro. La base d'asta qui sono 99 centesimi. Se siete una coppia che si è formata sul posto di lavoro, chiamatemi. 80024 0024. Let's do it like we're underage, that's how we will be. Prey on the illusion that will be the death of me. The day I saw people, that's what I can see. That you grew out of everything that you could ever be. Oh, oh, oh, oh, oh. Pretend you're 7, you'll pretend I'm 8. We'll never take the time to stop and contemplate. Oh, oh, oh. Siamo 9 uomini in mulino. Quando abbiamo sentito il tema ci siamo fatti una risata. Matteo da Modena, e immagino che abbiate anche ragione. 80024 0024. Ci sono storie più e meno tristi di amori nati sul posto di lavoro. E quindi partiamo subito con Massimo dalla provincia di Varese. Pronto Massimo? Ciao, ciao Matteo. Ciao, buongiorno, come stai? Bene, tu? Io benone, grazie. Bene, la grande. Tu sto ti aspettando sei... per andare da un mio paziente. Da un tuo paziente? Sì, faccio il fisioterapista. Quindi rimetti a posto le persone che si sono rotte qualcosa? Ci provo. Ma qualsiasi arto? Arto sì, anche altri tipi di problemi, ma non parliamo di questo, scuse. No, ma guarda, perché c'ho un piccolo... Di solito immagino che quando incontri qualcuno che ti racconti che lavoro fai... guarda, ho un piccolo dolore qui, Massimo. Sì, no, sono lobo e dico. Ok, perfetto. Senti, oltre a suonare lobo e fare fisioterapista, invece tu hai conosciuto tua moglie in qualche sì. luogo di lavoro, immagino. Sì. Ho vinto un concorso, un'azienda sanitaria e sono andato a firmare il contratto. Lì c'era la segretaria che poi per caso ho incontrato alla macchinetta del caffè e poi mi ha telefonato un giorno che avevo lasciato le luci accese della macchina e poi ci siamo sposati. E da quanto siete sposati? Noi siamo sposati da 5 anni. E avete e anche... Conviviamo da 7. E avete figli o robe del genere? Siamo 2 figli. Cioè robe del genere, tipo figli. Sì, intendo sì, di... quelle cose che si fanno di solito quando si sta insieme, no? Sì, sì. Ok, quindi diciamo che questa è garanzia che le storie possono continuare, oddio. Le cose possono continuare. Simile a te, tu sei andato in montagna, invece lei mi fa disinvolta la macchinetta. Andiamo a bere una birretta. E non ha mai bevuto birra. Ah, ok, perfetto. Nel senso che era astemia? Assolutamente. Benissimo. No, ma la birra non la detesto. Massimo, che cosa vai a sistemare adesso al lavoro? È un problema a sistema nervoso centrale, okay. Una paralisi. Ok, ok, quindi reimparare a camminare praticamente. Bravissimo. Ok, Massimo, ti faccio in bocca al lupo per la tua giornata da lavoro, grazie mille. E complimenti a te, ciao. Grazie, Massimo. Ciao, buona giornata. Andiamo a Bologna da Franco, pronto? Ciao. Ciao Franco, come va? Ciao, bene, tu? Beh, bene, bene, ti ringrazio. Bene. Senti, è un po' particolare la tua storia, mi sembra di capire. È un po' particolare, però assolutamente di grande passione, non so come dirvi, no? La storia è molto semplice, nel senso che io ero rappresentante a quei tempi farmaceutico, tra l'altro collegato anche all'ascoltatore di prima, il discorso. Sei sempre nell'ambito? Sempre nell'ambito. E... Però quantomeno non siete dei consulenti, guarda, questa cosa un po' mi rincuora. No. O tu un po' sì. No, beh, io adesso ho cambiato completamente genere, se vuoi, però sempre nella chimica, però non più farmaceutica. Ma ammettilo, Franco, eri un po' consulente? Ero un po' consulente. Allora? Allora, sì. Lo sono stato assolutamente, sono riuscito. Ok, il grande mondo dei consulenti. Esatto. Quindi, scusa, perdonami, torniamo quindi al punto. No, niente, io ero da un cliente, un cliente abbastanza importante sì. per me, e ho imparato da lui che la mia azienda aveva deciso di fare una scelta diversa e aveva già presentato persone che avrebbero sostituito non solo la mia funzione ma anche altre funzioni che in quel momento erano attive. Sì. E uscendo dal cliente vedo una ragazza in sala d'attesa, molto, insomma, mi piaceva, molto carina. E per caso ho guardato che aveva una brochure a fianco che era praticamente identica a quella che io avevo da anni nella borsa. Cioè, quindi era lei che ti avrebbe sostituito? Era lei che mi avrebbe sostituito. A quel punto ho avuto così un attimo, il pensiero immediato è stato quello di mandarla a quel paese, perché ero già nervoso, perché chiaramente sentire una cosa da un cliente senza esserne a senza saperlo, dall'azienda, certo. Insomma, non era carino. E ho fatto in modo anche abbastanza aggressivo, gli ho detto proprio così: tu oggi a mezzogiorno vieni a mangiare con me. Io mi sono presentato e le ho detto che ero quello che lei comunque avrebbe soppiantato. Ma scusami, il tuo modo aggressivo era perché avevi voglia di dirgliene quattro o avevi voglia di conoscerla? Non ho capito. No, in quel momento avevo semplicemente voglia di dire le parole. Ah, proprio, ok. Senti, com'è finita? A che punto siamo della storia adesso, Franco? Siamo sposati da quel giorno, non dico da quel giorno, ma da quel giorno sono 20 anni che siamo ancora insieme. Quanto, scusami? 20 ma, anni. Ma quanti anni hai, Franco? 46 quest'anno. E quindi avevi 26 anni, sì. Perdonami, ho sempre avuto problemi con la matematica nonostante il liceo scientifico. Franco, ti ringrazio molto, salutami. Grazie a voi. La tua moglie, è moglie o è solo compagna? È moglie. Salutamela. Sì. Ciao Franco, auguroni. Grazie. Ciao, anche ciao. A te, ciao. Andiamo ad Ancona, da Marco. Ciao Marco, storie più o meno tristi dicevamo prima, storie, giusto? Non proprio triste, guardarsi, girarsi indietro, magari ogni tanto ci scappa un sorriso. Cioè, com'è andata? Senti, io facevo il capo reparto in un'azienda. Sì. Che faceva cosa, avevamo, Marco? Cosa faceva? Il locale produzione sotto e sopra avevamo il magazzino. Cosa facevate, Marco? No, non lo posso dire perché sennò lo individuano. Ah, ok. quindi dovevamo portare questa merce in magazzino, no? Sì. E fatalità, ci trovavamo sempre io e poi questa ragazza. Uh-huh. E l'ascensore continuava ad andare su e giù. Sì. E questa storia è andata avanti per un paio di mesi. Sull'ascensore? Sull'ascensore, sì. Mazza, dei viaggioni su questo ascensore che facevano. Sì, andava. Se non che un giorno mi fa, ti devo dire una cosa. Il primo pensiero, Dio, è incinta questa qui. Com'è? No? Mi è cascato proprio il cuore, sai? Ho detto, ma non ho capito, perché te l'ha detto lei? Ah, lei ti ha detto, no, ti devo dire una cosa, detto, scusami. Devo dire una cosa. Io ero sposato, tra l'altro, no? E allora mi è venuto ancora il cuore e mi fa, tra 8 giorni mi sposo. E lì ti si è sollevato un peso. Ma scusami, però, e poi ti lascio andare, Marco, fammi capire, ma tutto questo sempre solo in ascensore? Solo in ascensore. Ma quanto duravano questi viaggi in ascensore? Com'è? Quanto duravano sti viaggi in ascensore? Ma fa conto che ne facevamo una trentina su e giù. Marco, grazie mille, buona ciao. Giornata. Ciao. L'ultima telefonata, andiamo a Caserta da Sabrina. Pronto? Pronto. Ciao Sabrina. Ciao, come stai? Bene. Bene? Io benone, tu? Abbastanza. Siamo in coda in arrivo a Firenze. Sto cosa ci vai a fare a Firenze? Casa. Scendo a casa. Vengo ah, ma è proprio il ponte... L'esodo. È l'esodo, ma c'è traffico? Mamma mia, ininterrottamente. Perché guarda, effettivamente c'è questa roba che la gente pensa tanto al primo d'agosto, poi invece le ore in coda le fai a Pasqua, quando dici tanto chi parte oggi, è giovedì, sono le 4 del pomeriggio invece. Senti, pensavo di essere l'unica. Esatto, e tu stai tornando a casa dai tuoi genitori? Esatto, con i miei genitori, abbiamo fatto l'esodo tutti insieme, sono venuti a trovarmi a Milano e adesso scendiamo tutti a Caserta. E sono loro quelli che sono conosciuti sul posto di lavoro? Esattamente. A scuola, sui banchi di scuola, o meglio, non erano così giovincelli, mia mamma era una supplente e mio padre, un collega, le ha offerto un passaggio. E da lì? Sono passati quanti anni? 33, bene, dal 77. Sabrina, io ti auguro di... Tu sei fidanzata, sposata o roba del genere? Sì, fidanzata, non con un collega però. Vabbè. Sempre facciamo lo stesso mestiere ma in posti diversi, vabbè. Meglio. Dici dove ci trovi così diamo un'informazione di servizio che c'è traffico? Sono adesso a Firenze, sì, Scandicci. Ma è il papà o il fidanzato? È il papà, viva il papà e la mamma. Ciao, grazie Sabrina, buona giornata. Ciao, grazie. Grazie anche a Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Paolino Corleoni. Trovate tutte le informazioni sulle mie scarpe sul sito radio24.it o al solito indirizzo di Facebook, Matteo Caccia, vendo tutto. Domani la seconda parte della storia, perché non è finita qui. Se invece voi avete piani fedifraghi in testa, lasciate perdere, che in due è sempre meglio che in tre.